Non ci davano un euro, ma ci davano voti, come se i numeri fossero importanti. E volevo il più basso, ma puntavo più in alto, lo facevo per distinguermi dagli altri. Non so quanto ti invidiavo se cantavi per mio padre, non c'erano scuse. E mi rinchiuse per entrare in una scuola come un albero ed uscire come un palo della luce. Quanto fumo in una macchina che va. Da un silenzio imbarazzante nascerà un ricordo, quello che mi vorresti dire ti si legge in volto. Tutti con giubbotti in pelle come i punk. Ti ricordi il tuo giubbotto? Ci ho messo sopra delle borchie, non credo ti piacerà. Perdonami papà, ma sono una rockstar. Sempre in ritardo, ti rivedi in me, forse dallo sguardo. Tu cresciuto in paese, io cresciuto in città. Tu domenica in chiesa, mentre io prego in un pub. Forse Dio non fa per me, forse questa vita non fa per me. Mentre qualche amico si fa per tre, si accontenta di un lavoro che non è un granché. Io ci credo ancora. Quanti sogni in una macchina che va. Da un silenzio imbarazzante nascerà un rimorso, quello che mi vorresti dire ti si legge in volto. Tutti col giubbotto in pelle come i punk. Ti ricordi il tuo giubbotto? C'erano in tasca delle borchie, le tolte qualche anno fa. Perdonami papà, ma sono una rockstar. Non siamo le rockstar. Quale posto è il mio? So che ci stai male, un po' ci soffro anch'io. Ma partire per un viaggio come dirsi addio. Perché quando tornerò sarò diverso ed io. Quante volte ti ho deluso, quanti sbagli ho fatto. Ma da te che l'ho imparato di puntare in alto. Realizzare i propri sogni, non quelli di un altro. Perdonami papà, ma sono una rockstar.